Venezia 75. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Piero Di Domenico. Bentrovati a Venezia 75, la rubrica per aggiornarvi su quanto sta accadendo alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Come al solito c'è il nostro Piero Di Domenico a informarci. Ciao Piero. Ciao Alessandro, un fantasma si aggira per il Lido ed è Steve Bannon, l'anima nera, l'ideologo di Donald Trump. Ieri è stato presentato questo film documentario di Errol Morris, uno dei grandi documentaristi contemporanei, American Dharma, che è un film, appunto, intervista con Bannon. La sedia di Bannon alla prima proiezione ufficiale era vuota, anche perché, ha detto Morris, noi non l'abbiamo invitato, però si era sparsa la voce, appunto, che Bannon ci fosse, o che comunque, anche se non non nella poltrona ufficiale, comunque è in giro per il Lido. È un film che ha riacceso una discussione quasi endemica, cioè se è giusto in qualche modo offrire un proscenio a ideologie decisamente discutibili come quelle di Bannon. Morris, credo anche con buoni argomenti, ha risposto in conferenza stampa dicendo che è meglio capire quello che sta succedendo piuttosto che sentirlo riferito, sentirlo da altri, in qualche modo anche avere quindi una visione chiara della pericolosità delle idee di questo signore, di questo personaggio che, ricordiamo, poi ha rotto anche con Trump, ma che comunque continua a lavorare in qualche modo nell'ombra. E in questo senso, insomma, è un film che riesce a far emergere i tratti anche un po' luciferini, appunto, di Bannon. Un tema che in qualche modo si è riflesso anche in un altro film che ieri era in concorso, il film di Paul Greengrass sul massacro di Utøya in Norvegia, questo 22 luglio, che racconta l'attacco dell'estremista di ultradestra norvegese Anders Breivik nel 2011, che causò la morte di 77 persone, tratto dall'autobiografia di una delle vittime sopravvissute. Ed è anche in questo caso un film che naturalmente ci pone una serie di interrogativi sul crescere dei populismi, dei movimenti di estrema destra, che ovviamente è una discussione che anche nel nostro paese è viva, e che la Norvegia ha dovuto affrontare solo pochi anni fa, che Greengrass ha provato a raccontare con uno stile molto frenetico, come nel suo stile nella prima parte. Nella seconda invece c'è la parte più processuale. Ricordiamo che Breivik è stato condannato a 21 anni, che è la pena massima prevista dall'ordinamento norvegese, anche per un omicidio per uno sterminio di massa come quello che lui ha compiuto. Ed è ovviamente anche questo film che ha riacceso, appunto, anche discussioni dal punto di vista formale, perché è un film prodotto da Netflix, anche nelle proiezioni per la stampa c'è stato qualche contestazione per un film che qualcuno ha ritenuto un po' stemperato, soprattutto dal punto di vista formale, registico, un po' anacquato e quindi condizionato in qualche modo, o presuntivamente condizionato, dal fatto di essere destinato a una piattaforma online come Netflix. Mi sembra anche questa una discussione un po' datata e che in qualche modo dovrebbe essere superata da riflessioni, insomma, che guardino un po' oltre quello che è lo schema tradizionale, insomma, della produzione cinematografica. Infine, Greengrass è discontinuo, è alterno sicuramente, ma è un film che comunque fa emergere degli spunti, dei temi interessanti, in un festival che naturalmente comincia già a interrogarsi sul Toto Leone, con in pole position al momento registi messicani come Cuarón con il suo Roma e il film che peraltro era in programma ieri di metteci col problema che però problema politico, perché il presidente della giuria è Benicio del Toro, che Guillermo del Toro, scusate, che è messicano, e quindi vedremo insomma come se la caverà, ma sicuramente i suoi connazionali sono quelli che finora hanno colpito di più. Veniamo alla giornata di oggi, naturalmente senza dimenticare anche che le rassegne e le sezioni collaterali proseguono, compresa ad esempio quella dedicata ai grandi classici recuperati e restaurati, peraltro con una importante presenza della Cineteca di Bologna, che ha portato al Lido il restauro di capolavori come Morte a Venezia di Visconti, Il posto di Ermanno Olmi, oltre che il film iraniano Brick and Mirror di Ebrahim Golestan del 65, che descrive l'Iran degli Shah con i primi segni di quella crisi che poi porterà alla rivoluzione comunista. Dicevo però che ovviamente oltre a queste sezioni il concorso continua e naturalmente con come dire molti chiaroscuri, ecco, non c'è dubbio che quello che si può notare è che l'insieme di grandi stelle, di grandi autori che quest'anno Venezia è riuscita a mettere insieme probabilmente almeno finora non è riuscita a tenere a partorire un livello forse all'altezza di quello che in qualche modo ci si poteva attendere. Grandi registi, ma con film che non tutti finora hanno convinto. Oggi, per quanto riguarda il programma, naturalmente, che continua con il concorso, ricordando che ci avviamo appunto verso la parte conclusiva di questa mostra, dicevo appunto che per quanto riguarda il festival e appunto il concorso, vedremo appunto cosa succederà per quanto riguarda gli ultimi film. Ieri fuori concorso, ricordo, c'è stato anche I Villeggianti, film familiare di Valeria Bruni Tedeschi, mentre per quanto riguarda appunto il programma di oggi, probabilmente insomma non ci sono particolari fibrillazioni e insomma vedremo un po' che cosa potrà riservarci questo ultimo scorcio di un festival che, ricordo, ha fatto finora ha presentato molti film interessanti anche nelle sezioni collaterali. Oggi comunque tocca all'ultimo italiano, Capri Revolution di Mario Martone. Martone ritorna al 1914 nell'isola di Capri, minacciata dall'incubo della Prima Guerra Mondiale, rifugio di tanti che sognavano invece la libertà. E l'altro film invece è The Nightingale, che è un film importante perché è l'unica regista donna in concorso. Ho già parlato insomma delle tante polemiche su questa selezione discriminatoria di genere di quest'anno, con una sola regista donna, Jennifer Kent, con un thriller ambientato nell'Australia dell'Ottocento. Fuori concorso invece il nuovo film di Zhang Yimou, che è ancora un Wuxupian, quindi un film come dire in costume, e il film è Ombra, ambientato ancora nell'epoca lontana della lunga storia cinese. Segnalo anche in chiusura un film di Ivan Ayr nella sezione Orizzonti, Sony, che racconta la storia di due poliziotte indiane che intraprendono una sorta di crociata contro le tante troppe violenze commesse appunto contro le donne nell'India contemporanea, come a dire purtroppo che tutto il mondo è paese. Venezia 75, la mostra del cinema di Venezia raccontata da Piero Di Domenico.